Siamo in collegamento con Giovanni del Locomotive, che salutiamo. Ciao Giovanni. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Allora, ti abbiamo chiamato perché il Locomotive sarà uno dei 130 live club per tutta Italia, che sabato ospiterà appunto un concerto live che verrà poi mandato in streaming sull'ultimo concerto. Quindi innanzitutto vorremmo chiederti di parlarci un po' di questa iniziativa e come il Locomotive ha deciso di partecipare appunto a Ultimo Concerto. Ma abbiamo deciso di partecipare perché più o meno parteciparono anche tutti gli altri club del territorio nazionale. In realtà l'iniziativa è stata fatta, diciamo, in coincidenza con il triste anniversario dell'ultimo concerto, diciamo, vero, che si è potuto fare un anno fa. Nel nostro caso erano stati i Big Thief il 22 di febbraio, poi appunto dal 27 entrò in vigore il decreto che di fatto ha chiuso i locali come il nostro, ovvero i live club. E noi come Locomotive non abbiamo smesso del tutto di fare concerti, fortunatamente, perché almeno l'estate l'anno scorso siamo riusciti un po' a lavorare con la rassegna che abbiamo fatto a Puccini, per cui all'aperto con i posti seduti e distanziati, ma di fatto al Locomotive è stato praticamente l'ultimo evento, è stato quello di un anno fa. Abbiamo riprovato ad aprire in ottobre perché sembrava che in qualche modo si potesse, in modalità seduta e distanziata, far solo, quindi diciamo che è stata un po' una festa di inaugurazione e anche di chiusura la stessa sera. E chiaramente la situazione è abbastanza grave, per cui è stato abbastanza semplice, direi, d'accordo tutti i club per questa iniziativa, e allo stesso tempo anche gli artisti si sono resi disponibili per questa iniziativa, perché loro stessi si rendono conto che se non ci sono i posti dove andare a suonare diventa un problema per tutti, anche per loro chiaramente. Infatti diventa un problema per tutti. Noi infatti abbiamo seguito martedì con i nostri microfoni inviati speciali anche la mobilitazione e manifestazione che è avvenuta in piazza martedì, con appunto in realtà questo grandissimo concerto che si terrà appunto in 130 live club italiani su tutto quindi il territorio nazionale. È sicuramente un grandissimo segnale. Tra l'altro, Ultimo Concerto, appunto, c'è questa immagine molto forte di questo grande punto interrogativo con dietro appunto le immagini di tutti questi live club che appunto al momento non possono, diciamo, essere rappresentati come meglio dovrebbero. Voi chi ospiterete? Noi ospiteremo i Regaz dello Stato Sociale e i Botanici, che sono un gruppo della scuderia dello Stato Sociale, la Garriccia. Di base, diciamo che ogni club ha cercato di invitare o di far esibire gruppi che in qualche modo hanno sempre suonato entro le proprie mura e che in qualche modo sono maturati assieme. Nel nostro caso, con i ragazzi dello Stato Sociale, diciamo che li abbiamo fatti come organizzatori di concerti un po' in tutte le forme, in tutti i luoghi, compreso il Paladozza, essendo stato un concerto che abbiamo organizzato noi, ed è stato tra l'altro uno dei primi esempi di gruppi che vengono dalla scena indipendente, che in qualche modo si trovano a suonare in spazi più ampi. E chiaramente loro sono nel mezzo del tourbillon di Sanremo, per cui siamo ancora più grati del fatto che siano riusciti a trovare il tempo per dedicarsi a questa iniziativa. E ovviamente non hanno dimenticato, insomma, le loro origini, visto che da noi hanno suonato tantissime volte, e chiaramente essendo di Bologna, diciamo che sono anche amici, visto che ci si incrocia in città spesso e volentieri. Insomma, una band perfetta per rappresentare al meglio il Locomotive. Noi ti ringraziamo per averci portato la tua testimonianza, vi facciamo appunto un grandissimo in bocca al lupo per sabato, nella speranza che appunto questo possa essere il primo di una serie di, insomma, novità e cambiamenti all'interno di questo anno pandemico che, insomma, non sta dando la giusta visibilità e la giusta voce al mondo dello spettacolo. Perfetto, grazie a voi.